Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Francesca Mezzadri. In questa puntata, il piano per migliorare la qualità dell'aria in Emilia-Romagna, la promozione della salute mentale e poi alcuni degli atti presentati in aula in tema di trasporti, energia, sanità e agricoltura. Iniziamo con i lavori delle commissioni. Sebbene siano stati evidenziati segnali di miglioramento nella qualità dell'aria, la Regione Emilia-Romagna procede con il piano aria integrato regionale, che prevede alcune limitazioni alla circolazione, come ad esempio lo stop ai diesel Euro 5. In Commissione Territorio è stata presentata la proposta dalla vicepresidente della Giunta e assessore all'ambiente, Irene Priolo. Tra i punti più importanti, i nuovi bandi per la mobilità con i mezzi pubblici, veicoli e velocipedi elettrici e più punti di ricarica, il limite del riscaldamento che verrà fissato a 19 gradi e i finanziamenti ancora disponibili per sostituire gli impianti di riscaldamento a biomassa sotto le 5 stelle. Il piano degli investimenti supererà i 154 milioni di euro in totale, con 63 milioni solo nel primo triennio di attuazione. Una proposta complessa, apprezzata per la sua trasparenza, che però è stata definita impegnativa dalle forze politiche in commissione. Le critiche dell'opposizione riguardano soprattutto le deroghe che non saranno più riconosciute in futuro, come ad esempio quella di usare l'auto per portare i figli a scuola. Duro l'attacco di Valentina Castaldini, di Forza Italia. Non è scontato che un bambino vada nella scuola sotto casa, è impossibile per chi ha più di due figli poter accedere a scuola con una bicicletta, perché oggi ancora questo non è concesso, anche soprattutto guardando il bike sharing. Ecco, diciamo che comincia un lavoro, comincia anche il mio lavoro di opposizione per far sì che ci sia ragionevolezza e anche libertà da parte dei genitori di poter almeno accompagnare, andare a prendere i propri figli a scuola. E se anche la Lega sottolinea come questa proposta non contempli il coinvolgimento delle famiglie con bambini più piccoli, il Partito Democratico sottolinea l'urgenza di attivarsi sulla qualità dell'aria, perché i dati indicano che l'inquinamento colpisce soprattutto i bambini. Sentiamo Andrea Costa del Partito Democratico. È un piano innovativo che si muove da un principio, non più la sanzione ma l'incentivo, che vale per l'industria piuttosto che per l'agricoltura, piuttosto che per i comportamenti di vita di ciascuno di noi. Noi non vogliamo sanzionare ma vogliamo accompagnare i processi di cambiamento verso comportamenti appunto più virtuosi e sostenibili. Per migliorare la qualità dell'aria è anche necessario accelerare la transizione verso fonti di energia rinnovabili. In proposito, Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde, ha chiesto a che punto sia il percorso di autorizzazione di due impianti eolici previsti rispettivamente al largo di Rimini e della costa Ravennate. La procedura di impatto ambientale è stata avviata per entrambi, ha sottolineato la vicepresidente Irene Priolo. Si tratta di progetti di competenza esclusiva dello Stato e la Regione esprime solo un parere. Sentiamo la consigliera Zamboni. Ho preso quindi con soddisfazione che per quanto riguarda il mega impianto eolico solare a largo di Ravenna potrà partire a breve la procedura ministeriale di VIA, che non deve superare i 150 giorni. Per quanto riguarda Rimini invece la procedura di VIA è bloccata in attesa di nuove integrazioni progettuali che sono state chieste al proponente, e su questo mi riservo di fare un accesso agli atti per sapere esattamente quali sono queste richieste. Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico e accessibilità. Nel suo Question Time, Federico Amico, di Emilia Romagna Coraggiosa, ha evidenziato che in alcune stazioni nella tratta tra Reggio Emilia e Guastalla gli ascensori continuano a non funzionare. Sentiamo Amico. Alcune risposte positive sono arrivate. La stazione centrale vedrà operativa entro aprile l'ascensore, che quindi consentirà alle persone con mobilità ridotta di poter accedere ai binari FER, mentre per le stazioni di Santa Croce e Bagnolo avremo bisogno di più tempo e soprattutto di reperire le risorse. Riguarda la sanità, il Question Time di Marta Evangelisti, la capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sollevato il problema della carenza dei medici di medicina generale sul territorio regionale, soprattutto nell'area dell'Appennino bolognese. Secondo le parole dell'assessore Raffaele Donini, presto avremo una nuova pubblicazione per le zone carenti, anche per i 15 medici mancanti a Bologna. La risposta non ha soddisfatto Evangelisti, che chiedeva alla Giunta di riferire sulle soluzioni alternative preannunciate alla stampa stampa dal direttore generale della USL di Bologna. Sentiamo Evangelisti. Ho stigmatizzato il fatto che rispetto ad una problematica così importante, soprattutto nei confronti di territori già disagiati, si sia creata una sorta di aspettativa non condivisa con nessuno, di cui neppure l'assessore ad oggi sa, quando invece su quei territori c'è bisogno di intervenire subito, soprattutto per la mancanza di servizi sociosanitari e la distanza dei presidi ospedalieri. Rimanendo in tema, Simone Pelloni della Lega nel suo Question Time ha segnalato che per ridurre la spesa o per sopperire alla mancanza di personale nella medicina di urgenza, l'assessorato e le direzioni generali avrebbero intenzione di ripristinare il personale mancante negli ospedali maggiori recuperandolo dagli ospedali di prossimità. Pelloni ha quindi chiesto chiarimenti sulla organizzazione dei pronto soccorso al fine di fermare una ulteriore diminuzione della qualità e della capillarità del servizio sul territorio regionale. Sentiamolo. Il pronto soccorso è comunque un servizio di prossimità importante che per ora è stato capillare, adesso vediamo via via sempre una diminuzione della capillarità. L'Emilia Romagna deve anch'essa trovare modo di stimolare questi servizi e noi l'unico modo che conosciamo è quello di remunerare maggiormente chi lo merita e quindi chi in questi anni è stato, come dire, la nostra prima linea, prima nei confronti del Covid e poi oggi sull'accesso al pronto soccorso. Il tema della salute mentale è stato trattato in Commissione Sanità per la sessione europea con l'approfondimento di Antonio Lora, psichiatra e consulente per il Ministero della Salute. La salute mentale dei cittadini europei è una priorità per l'Unione Europea, ha spiegato Lora, e un impegno che dovrebbe essere rivolto prima di tutto ai più giovani, compresi i bambini. In tutto sono infatti 84 milioni gli europei colpiti da problemi collegati alla salute mentale, e tra questi quasi un giovane su due. Dopo la pandemia, la percentuale di ragazzi con problemi di depressione è più che raddoppiata. Anche in Italia i disturbi psichici rappresentano la seconda causa di disabilità e la percentuale maggiore di casi si riscontra nei giovani nella fascia d'età dai 15 ai 19 anni. Lo spiega Lia Montalti del Partito Democratico. 84 milioni di europei soffrono di problemi di salute mentale e per questo la Commissione europea nel programma di quest'anno ha messo tra gli obiettivi quello di mettere in campo più strumenti, più politiche a sostegno dei cittadini europei, con particolare riguardo per i giovani, perché i dati che noi abbiamo anche nel post-Covid sono davvero allarmanti. Importante anche capire quante risorse verranno stanziate, sottolinea Daniele Marchetti della Lega. Ora chiaramente, prendendo atto delle relazioni che ci sono state fornite in aula, è compito nostro quello di integrare le indicazioni che possiamo dare come territori coi programmi europei di finanziamento proprio sulla salute, in modo da finanziare i servizi e dare una risposta concreta così ai cittadini. E passiamo alla salute animale e il contrasto ad una malattia, la peste suina africana, che uccide suini e cinghiali. Il virus non si trasmette all'uomo e non presenta alcun rischio per la salute pubblica, ma la presenza dell'infezione nei suini selvatici o domestici può avere un effetto devastante per gli allevamenti e forti limitazioni alle movimentazioni di animali e prodotti. La Commissione Politiche Economiche ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna la Giunta ad intraprendere ogni azione necessaria per evitare che i focolai di peste suina africana si estendano al territorio regionale, dove attualmente nessun caso è stato riscontrato. Sentiamo il primo firmatario dell'atto, Matteo Daffadà del Partito Democratico. Credo che chiedere al governo mettere in campo delle azioni sia nostre che governative rispetto a questo tema vuol dire salvaguardare un patrimonio, salvaguardare l'economia, salvaguardare i posti di lavoro che nel nostro territorio, devo dire, sono tanti rispetto alla trasformazione appunto della carne e del sistema suinicolo. Le opere di 14 scultori dell'Emilia-Romagna sbarcano a Bordeaux per il Festival Le Printemps Italien. L'Emilia-Romagna e la regione francese Nouvelle-Aquitaine, della quale Bordeaux è capoluogo, sono gemellate e il festival è nato 4 anni fa grazie alla collaborazione con l'associazione Notre Italie per dare voce all'arte italiana in tutte le sue forme. Sentiamo il commento di Fabio Rainieri, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Siamo qui a Bordeaux, dove è stata allestita la mostra di artisti emiliano-romagnoli. alcuni dei quali hanno già fatto all'interno della nostra assemblea una loro mostra personale. Abbiamo salutato gli amministratori qui di Bordeaux e li ringraziamo per aver messo a disposizione questo spazio e il calore con il quale ci hanno accolto qui in Francia. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati, seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.mr.it. Grazie per essere stati in ascolto e tanti auguri di buona Pasqua. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.